ritagli, presentazioni e prefazioni di quegli oscuri oggetti chiamati libri. Per ritagli, questa volta introduciamo il libro dal titolo Il nemico e l'uomo di Bertrand Loart. L'unica edizione di cui sono in possesso è stata ritrovata in una bancarella ed è del 1998. Le edizioni sono quelle 415, credo ormai introvabile. In rete si riesce a trovare il PDF. L'età capitalista è più carica di superstizioni di tutte quelle che l'hanno preceduta. La storia rivoluzionaria non la definirà età del razionale, ma età della magagna. Di tutti gli idoli che ha conosciuto l'uomo, sarà quello del progresso moderno, della tecnica, che cadrà dagli altari col più tremendo fragore. Marx dice che le rivoluzioni sono la locomotiva della storia universale, ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno d'emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno. Tutto non è alla fine che ordine e armonia. La degradazione delle condizioni di vita viene ormai risentita nella sua unità ed universalità come la più grande minaccia che pesa attualmente sulla sopravvivenza dell'umanità. Questa minaccia costituisce anche la smentita più categorica della vitalità di un sistema che pretendeva, attraverso la libertà del commercio ed il progresso scientifico e tecnico, di assicurare l'esistenza di tutti. Pertanto, davanti ai progressi sempre più evidenti del disastro, tutti i poteri stabiliti hanno risentito in questi ultimi anni l'urgenza di istituire un largo consenso. Il grande show eco-mediatico del Vertice della Terra a Rio de Janeiro nel giugno del 92 non aveva altro obiettivo che illustrare di fronte al mondo intero come nessuno è più indicato dei dirigenti delle istituzioni attuali per porre un termine alla nocività che la loro incoscienza e i loro interessi dalla vista corta avevano generato, che era già come ammettere implicitamente le loro responsabilità in questa situazione. Leggo a caso, come sempre. L'apologia della tecnica. Molto evidentemente, lì si sarà riconosciuti, quando gli scienziati parlano di uomini, parlano di sé e di quel che sono diventati per raggiungere quella famosa oggettività scientifica disincarnata che considera la soggettività umana come un ostacolo per l'acquisizione di conoscenze. Ma la soggettività che hanno in questo modo ricacciato non manca di rispuntare inopinatamente da altre parti. Quando parlano di uomini, di come sono, secondo loro, gli uomini, non fanno che proiettare la propria parte cattiva rifiutata. Quando parlano degli uomini come vorrebbero che fossero, vi proiettano la loro pretesa parte buona totalmente illusoria. E in ciò si vede che per costoro la diversità delle sensibilità, le differenze tra gli individui, la varietà delle opinioni non sono una ricchezza, ma piuttosto un flagello che è necessario combattere perché fonte di conflitti, di controversie, di rimessa in discussione, per farla breve, una fonte di errori, di attriti, un ostacolo al buon funzionamento di quello che concepiscono come una macchina sociale. La distruzione della ragione. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, una nuova scienza spiccò il volo. Si trattava della cibernetica, inventata da Norbert Wiener nel 1942. Dopo 30 anni di guerre e di barbarie, la Guerra Fredda ostruisce l'orizzonte e le armi atomiche promettono nuovi olocausti, ben più micidiali dei campi di sterminio nazisti o dei bombardamenti di intere città da parte degli alleati. Wiener porrà all'attenzione il ruolo della comunicazione come mezzo per lottare contro le gerarchie e le organizzazioni rigide, per ristabilire i legami tra cittadini e per porre grazie ad essa un termine all'entropia, ai disordini generati da questi anni di barbarie. Questa nuova utopia sociale, come anticipò il padre della cibernetica, avrà due tratti distintivi. Da una parte sarà un'organizzazione sociale interamente imperniata attorno alla circolazione dell'informazione. Dall'altra parte le macchine, in particolare le macchine per comunicare, vi giocheranno un ruolo decisivo. Questa apologia della tecnica e la prodigiosa svalorizzazione dell'uomo che essa implica raggiunsero quasi immediatamente le vette che le spettavano presso i discepoli della cibernetica. Lo stesso anno in cui Orwell scriveva 1984, padre Dominique Dubarle dichiarava: «Possiamo sognare un tempo in cui la macchina per governare arriverebbe a porre un rimedio, in bene o in male, chi lo sa, all'insufficienza oggi palese delle persone e degli apparati abituali della politica». Negli anni 70 il professor Forster, inventore delle memorie dei computer, e maître penseur, informatico del Club di Roma, dichiarò che ormai i sistemi sociali erano troppo complessi per essere diretti da uomini e che la mente umana, capace solo di argomentare, di discutere e di fare approssimazioni, era ormai inadatta all'interpretazione dei fenomeni sociali. La critica della tecnica, in senso lato, in quanto rapporto sociale, il cui scopo è di eliminare ovunque i conflitti, è dunque all'ordine del giorno. La tecnica, lo si scopre adesso, è diventata un modo per mantenere separato quel che pure deve restare insieme, di fare in modo che coesistano nella società degli interessi sempre più in opposizione senza che per questo si scontrino. Oltre che il dominio della tecnologia propriamente detto, questo riguarda anche tutto ciò che serve alla società da utensile per produrre se stessa, ossia le varie istituzioni politiche, economiche e sociali. Questo discorso conduce direttamente a ridefinire il contenuto della politica, riprendendo questo termine nel suo senso quasi originale. La politica, come si ricorda, è nata nella città della Grecia antica, dalla necessità di mantenere insieme ciò che pure sembrava dover restare separato, cioè di costruire una città malgrado le opposizioni di interessi tra gli individui e le lotte tra le classi. In breve, la politica era l'arte di utilizzare la soggettività umana, le passioni e gli interessi necessariamente in opposizione delle persone per edificare una comunità. Attualmente la scolarità prolungata, gli stage e l'assistenza sociale sono i metodi impiegati ad oltranza per mantenere una parte sempre più importante della popolazione lontano dalla produzione, fin tanto che rimane una forza produttiva non necessaria che occorre demobilitare. Questi metodi sono a carico dello Stato e sono presentati come riuscita sociale, espressione del benessere. Attraverso questi procedimenti i giovani, i disoccupati e in generale gli esclusi vengono tagliati fuori dai circuiti della produzione, ma conservati come consumatori. La mondializzazione ha provocato un aumento delle spese sociali a detrimento delle altre necessità significative dello Stato, come per esempio l'effettivo poliziesco e l'acquisito di armamenti. Piuttosto che ricorrere alle imposte, gli strateghi del potere hanno sviluppato delle politiche di atomizzazione delle forze produttive inutili, attraverso la scappatoia dell'aiuto e delle associazioni non a scopo di lucro, finanziate dallo Stato, per mezzo di dotazioni private incentivate da uno sgravio fiscale. In buona sostanza si tratta per lo Stato di cedere la gestione dei servizi sociali e della riqualificazione di individui a delle organizzazioni inoffensive di volontari o a dei collettivi che inquadrino giovani, disoccupati, eccetera, in modo da sviluppare un'economia intermedia che neutralizzi gli inutilizzabili del mercato globale del lavoro. Questa economia è chiamata a svilupparsi negli anni a venire. In Francia l'economia sociale rappresenta più del 6% delle occupazioni. Tratto da A che punto siamo del 1998 di Miguel Amorós. Un ultimo breve estratto per darsi un'idea di questo libro. La morale operaista sviava i lavoratori dalla questione storica per eccellenza, la questione del progresso. La maggior parte della critica sociale ha sempre considerato che gli avanzamenti scientifici e tecnici erano degli alleati ideali del processo di emancipazione e non ha mai immaginato che, in quanto creatori di nuove servitù, avrebbero fatto del dominio una cosa insormontabile. Così gli operai erano separati dalla produzione automatizzata, quella stessa che non potevano chiaramente immaginare come opera loro e nemmeno mettere in discussione, senza criticare la macchina e senza rivoltarsi contro il macchinismo, come avevano potuto fare i loro predecessori da circa due secoli. La superiorità degli operai luddisti risiedeva nel fatto che sapevano a quale miseria la macchina li condannava. Abbiamo letto qualche estratto dal Nemico e l'uomo di Bertrand Luart, edizioni 415. Buona lettura. Thank you.